Sono così tanti gli spunti della liturgia quaresimale che mi piange il cuore dovermi fermare solamente su una piccola parte. Chissà, chissà che ciascuno di noi trovi l'ispirazione, magari attraverso questo stesso messalino quotidiano, di fare un'altra visita in chiesa durante la giornata oppure in casa nostra. Ma se il Signore ci ispira, se il Signore ci mette dentro questa seduzione, questa attrattiva, allora è facile pregare, è bello pregare. Io oggi mi fermerò ancora, come ho fatto settimana scorsa, sulle antifone del nostro rito ambrosiano, e sono bellissime. Oggi mi fermerò solo sulla prima, che di solito è come l'ouverture, introduce il tema, come del resto anche la prima orazione. Dice dunque l'antifona all'ingresso: di tutti, Signore, hai pietà. Nessuna respingi delle opere tue. Copri i peccati degli uomini fino a che si convertano. Guardate, c'è dentro anche un andamento quasi letterario, quasi poetico. Perdoni perché sei il nostro Dio. Che bello. Vedi l'afflizione del tuo popolo, che è molto amara, è vero. Ascoltaci, Padre che sei nei cieli, Salvatore del mondo, perdonaci. Dunque il tema di questa antifona e anche delle altre, ed è un tema che ricorre spesso nella Quaresima, è il perdonarci, farci perdonare i nostri peccati con la preghiera, con la penitenza, col digiuno. Io riflettevo un po' su che cosa vuol dire farci perdonare. Noi possiamo essere perdonati solo se chiediamo perdono. Solo se noi ci accorgiamo dei nostri peccati. Il figlio prodigo, finché non tornava a casa, non poteva essere perdonato. La peccatrice, finché non si è presentata in casa di Simone il lebbroso, non poteva essere perdonata. Dobbiamo riconoscere dunque i nostri peccati. E tra tutti i peccati, quello che la Bibbia, tutto l'Antico Testamento stigmatizza è l'abbandono di Dio. E usa una parola forte. Lo chiama l'adulterio, e fa bene, perché l'amore verso Dio è un amore, non è un ragionamento di testa. E allora, se tu tradisci un amore, sei un adultero. Vorrei con voi ripercorrere non tanto i numeri dei peccati, quanti le tipologie che, se non capitano a noi, forse capitano ad alcuni nostri familiari o ad alcuni vicini, o comunque capitano nel mondo, e noi siamo chiamati a pregare anche per loro. Il primo adulterio che facciamo, che si fa verso il nostro Dio, è abbandonare il cristianesimo per seguire altre religioni. Ogni religione è degna, se uno però nasce in quella religione e non ha conosciuto nessun altro modo di andare a Dio se non quello. Ma se un cristiano si fa geovista, se un cristiano si fa buddista o islamista, tradisce il suo Dio, tradisce la Santa Trinità. O se un battezzato tradisce il Vangelo, tradisce Gesù Cristo, il Salvatore, per seguire nuove religioni inventate, di cui c'è un pullulare. Io ogni tanto ne incontro famiglie sfasciate perché un figlio è andato a seguire un nuovo stigmatizzato. Oppure uno che attira, incanta le persone e lo chiamano, e lui si gloria, capitano. Capitano di che? Degli ammutinati del Bounty? Oppure sentivo un monsignore di Curia che diceva: ma oggi c'è un'esplosione di gente che vede la Madonna, che parla con San Michele, che parla con tutti. In Curia, dice, abbiamo un armadio pieno di pratiche. Ed è strano vedere gente che segue in maniera sedotta, da persone sedotte. Non hanno mai seguito in quella maniera Gesù Cristo. Parla uno, dice che Gesù mi parla, la Madonna mi dice, e tutti si passano foglietti, si passano messaggi, si passano poste elettroniche, perché la Madonna gli ha parlato, l'Arcangelo Michele gli ha detto. Cari amici, un altro peccato è coloro che, essendo cristiani e battezzati, non abbandonano la loro religione per seguirne altre, semplicemente rinnegano la loro religione diventando atei, diventando agnostici, miscredenti. Senta, giriamo per la benedizione delle famiglie. No, no, non ho bisogno, io non sono credente. E sono magari battezzati, no? Oppure ci sono ancora, ed è il caso più frequente, di persone battezzate che si dicono credenti ma non praticanti. Io dico che sono come delle persone assunte in una ditta che fanno gli assenteisti e dunque da licenziarsi, da essere licenziati. E purtroppo la gente non considera grave questo. No, ma sa, guardi, io non ho niente contro, è solo pigrizia. Bravo. Se tuo figlio non studiasse e l'insegnante ti dicesse: guardi, suo figlio ha un bel cervellino, peccato che non si impegna perché è pigro, tu vai a casa, lo prendi per le orecchie e gli dici: almeno tu fossi scemo, non sarebbe colpa tua. No, tu sei pure intelligente, ma sei solo pigro. Quante volte, amici, quante volte, di tutti costoro vale la frase dell'Antico Testamento: oh amici, io mangerei Bibbia mattina e sera, ragionerei con la Bibbia nel cuore. Hanno abbandonato me, dice Yahweh, sorgente di acqua viva, per scavarsi pozzi e cisterne che non trattengono l'acqua, e finiranno per morire di sete. E infine ci siamo noi, i poveri peccatorelli di tutti i giorni. Ah, ma sa, sono solo peccati veniali. Ma anche questi sono da ripudiare, amici. Come tra due sposi che si dicessero parole non offensive gravi, solo offensivi feriali. Ah beh, ti sei offeso perché ti ho detto che sei, è giù una parola. Ti sei offeso per una stupidata così. Ma facciamoci i complimenti. Facciamo i complimenti a Dio, è la nostra preghiera. E dunque chiediamo perdono per noi e per tutta questa gente. Meditiamo, mangiamo, ruminiamo di tutti, Signore, hai pietà. Nessuno respingi dalle tue opere. Copri i peccati degli uomini fino a che si convertano. Perdoni, perché tu sei il nostro Dio. Vedi l'afflizione del tuo popolo, che è molto amara. Ascoltaci, Padre che sei nei cieli, Salvatore del mondo, perdonaci.